Mentre guardo il tuo seno perfetto, lo fai per dispetto. Me lo mostri stringendo più stretto un pochino all'insù. Quello sguardo tremendo che hai, io ti leggo il pensiero, lo sai. Un sorriso smagliante, due occhi dipinti di blu. Dammi il numero del cellulare, ti chiamo stasera. Io ti porto a mangiare una pizza, a ballare se vuoi. Mi rispondi che sciocco che sei, ci vediamo alle tre a casa mia. È da tempo che desideravo lo stesso da te. Dai, dai, dai, ci sono i tuoi, ma cosa fai? È più forte l'impatto, mi butti sopra il letto. Dai, dai, dai, ti prego non fermarlo mai, quel tuo modo d'amare, lunatico anormale. Quell'odore che è sul tuo petto, lo respiro mentre sto di sotto. Quell'ombra che vedo alla porta rispecchia di noi. Lei è sola scoperta da letto, modo mamma mi dice di fatti. E già sento un rumore la volta, ma curro a guardare. Ma che fai, ti rivesti, sei pazza? Ti prego, non vale. Sei cattiva, non puoi farmi questo, io voglio di più. Fai l'ingenua, però io lo so, e tra poco io ti sfoglierò. Impazzisci quando sono io a levarti i blue jeans. Dai, dai, dai, ci sono i tuoi, ma cosa fai? È più forte l'impatto, mi butti sopra il letto. Dai, dai, dai, ti prego non fermarlo mai, quel tuo modo d'amare, lunatico anormale. Quell'odore che è sul tuo petto, lo respiro mentre sto di sotto. E quell'ombra che vedo alla porta rispecchia di noi. Lei è sola scoperta da letto, modo mamma mi dice di fatti. E già sento un rumore la volta, ma curro a guardare. Dai, dai, dai, ci sono i tuoi, ma cosa fai? È più forte l'impatto, mi butti sopra. L'odore che è sul tuo petto, lo respiro mentre sto di sotto. E quell'ombra che vedo alla porta rispecchia di noi. Le lenzuola scoperte dal letto, in modo mamma ti dice che hai fatto. E già sento rumore la volta, ma curro a guardare.